Vado. Oh no, è partito anche Craig. Va bene. E non so poi come lo monto questo, se prima o dopo la sigla o a caso durante, o vabbè, vediamo. E vabbè, comunque gli ospiti della puntata scorsa sono rimasti per farci fare un qualcosa. Un giochino. Ok. Allora, l'altro giorno mi chiedevo come Aspetta, Marco. scusa, scusami, il gioco è a tema della puntata. Ok. Sì, è tema Nicolas Cage. Va bene. Cioè, No, cioè... no, no, no, no, mi chiedevo come fosse andato in bancarotta Nicolas Cage. Ma Pensavo Jacopo lo per gioco sa. d'azzardo. Non lo so, aspetta, fammi finire la presentazione. Poi ci dirà se lo sa oppure no, nel caso zitto. Mi chiedevo come fosse andato in bancarotta Nicolas Cage e la risposta pensavo fosse il gioco d'azzardo, invece no, a quanto pare si è dato alle spese folli. Ma tipo? Quindi adesso vi proporrò delle spese folli fatte dai Questi da punto mi VIP piace. e voi dovete dire se è una spesa di Nicolas Cage o meno. Ah. Ok? Sì. Quindi Jacopo, sai già le risposte? Non Più o credo. meno. Ah, No, ok. di tutti i Più o meno. No, è che VIP. Nicolas Cage è particolarmente strano, quindi qualcosina so, però Ah, vediamo. Beh, pensavo che mi allora, stava particolarmente a cuore. se ci sono un sacco di soldi per un dentista, lo sappiamo che è lui ormai. Esatto. Allora, la prima in realtà sono denti di diamante. È lui. Sarà lui, sì. Sì, questo è lui. Dopo Diamante addirittura. aver fatto Possibile. Le ali della libertà. E invece no, è di Kanye West. Oh mio Cavolo. Dio. Kanye West, che ricordo, ha sul libro paga. No, non era Kanye West, era Snoop Dogg che aveva il tizio che gli consigliava quanto fumare l'erba. Vabbè, ma magari lo pagava C'è uno, anche, non sei. c'è uno che prende tipo 500 dollari l'ora, una cosa del genere, per dirgli L'ora. quando fumare l'erba, una Fuma. cosa. Da valutare come carriera di scheletoria. Ma dice che un naso come. Cioè, lui sa proprio il momento giusto in cui bisogna. Non so, leggevo un'intervista, beh, comunque. Villa infestata da fantasmi. Sì. No, io Attenzione, direi sì, Nicolas se Cage. l'esperto dice di sì. Sì, infatti è giusto. Era questo che sapevo di Nicolas Cage. Ma Tra l'altro è questa. pure a mezzo allagata in qualche uragano, mi Sì, pare. tipo, cioè, ci ha vissuto anche una serial killer, una Ma roba del costa più o genere. meno di una Paga casa normale? molto di più. Cioè c'è mercato quindi questa cazzata. Certo, Sam. Vabbè, io. La slitta di quarto potere. Spero di no. Prego, ti prego, io spero di sì, ti prego. No, secondo me No. non è lui. No, è Steven Spielberg. Ah, Vabbè, che allora. banale. Un cavallo morto. Sì. Morto. Sì. Sì, è In che Cattelan senso? lui, è il nuovo Cattelan. In che senso, cavolo? Ma è morto? Cioè, ma. Un cavallo morto. Ma macellato o Non lo so, non ho visto la foto, imbalsamato? raghi. Ci ho trovato solo scritto di un cavallo morto. In vetrina, trovato in vetrina. Appeso al muro. Appena Appena morto. Vado in vetrina. Sì, trovato in vetrina, ho letto questo. Ma In vetrina. forse Guillermo del Toro? No, può essere lui, non lo No, è Ma Amanda Seyfried. Ma no. Ma davvero? che Ma che se ne fa di un cazzo? cavallo morto, Amanda Ma Seyfried? che cazzo? Figa. Anche se Beh, è ne un fa bel Nicolas cavallo, Cage, magari. però. No, ma Nicolas Cage mi immaginavo Se fosse tipo in un mostra, mi film, sembra magari una gli è casa morto il cavallo. infestata. Lo metto Non in una casa c'è nulla. infestata. Tipo il maiale di Pig, secondo me lui l'ha comprato poi. Per farci un maialino da tartufo La d'oro. fortuna che mi dà. Teste di pigmei. Secondo me sì, questo è Nicolas. Tutto è possibile, quindi sì, direi di sì pure questo, tanto ormai mi sento. Nick. Ficca di amici. Di Sì, quando è ero anche vero. amica di Ha due prima. teste di pigmei a casa. Oddio. Ma perché? Che uomo. Ma perché? Una macchina per Tipo rilevare lui. fan. Scusami. Lui sta facendo i film per ste cose. Che lo fa per il fisco Sì, ha e speso lo tipo stipendio fa per 150 milioni in questo. 7 anni con ste cazzate. Quanti? la macchina per i fantasmi direi di sì, perché se no sì, come fa? Sì, se no la casa è infestata. Esatto, giusto. E invece no, l'ha comprata Lady Gaga all'asta per $50,000, tipo. Va bene. Dico a Cage. Una tomba da che faccia da mausoleo a forma di piramide. Cosa? Come omaggio ai misteri del Prado. Ma sì, questo è... No, è lui, sì. È lui. Sì, sì, è lui, è lui. Sì, si dice come omaggio al mistero dei templari della mente. Che tra l'altro lui rinnega, cioè sto film lui adesso lo odia, poi vabbè ne parleremo, cioè, o ne abbiamo già parlato in puntata. Essere sepolto in una piramide, così non so. Vabbè, adorabile. Teschio di dinosauro. No, troppo banale. O lo mette anche quello nella casa stregata. Lo mette insieme al cavallo. No, dai, forse sì. Questo è del toro, non lo so. Secondo me sì. Invece Nicolas Cage che l'ha rubato all'asta a Leonardo DiCaprio. Ma che cazzo? Ma perché litiga Leonardo DiCaprio adesso? Scusa, quando l'ha pagato? Non mi ricordo più, però l'ha dovuto restituire alla Mongolia perché si è scoperto che era stato rubato. Bello. Il danno è la beffa. Che storia. Che bello. Un biglietto aereo per il suo cappello. Un biglietto? No, non era no, lui. No, non è no, lui. No, no. No, infatti è buono. Mai una foto del cappello? No, tra l'altro ho pagato tipo $17,000 il biglietto aereo. No. Roba del genere. Cobra Albini. Cobra Albini è Nicolas Cage questo. Spero di sì. Sì, è Nicolas Cage che ha comprato due Cobra Albini. Che se ne ha fatto? Sta arrivando casa. Era da mettergli su un tavolo. Va bene, ho finito. Ah, ok. Comunque sì, dove hai trovato queste cose? Per ho cercato tipo, vabbè, come ha speso Nicolas Cage i suoi soldi o perché è in bancarotta Nicolas Cage, una roba del genere su Google, e poi le spese più folli dei VIP. Sono veramente belle, tipo anche come si chiama? Quella dei con i leggings. Quella no, sì, che ha sempre leggings, qualcosa più. E che comunque ha speso tipo una cifra allucinante per un paio di leggings che insomma prende €10 da intimissimi. Ma io in realtà pensavo le avessi speso in alimenti perché ti ho sposato 5 volte. No, 3 volte solo. No, no, sei sposato 5 volte. Si è sposato 5 volte e l'ultima volta si è sposato. Chi è che resta in casa tutti questi oggetti fantastici? Tra l'altro lui si è sposato quest'anno, congratulazioni. Con una della mia età. Esatto, auguri sì. Nicolas. Vabbè, lui è un predatore sessuale tipo, cioè comunque sono tutte ragazzine. Mio Dio. È un po' sì. Ma lui ha comunque tipo dei castelli, ha 200 miliardi di ville, di cose, cioè... Vabbè. No, non più ormai. No, esatto, adesso ha avuto. Andate via tutto. Lui è anche uno dei record di matrimonio, tipo 4 giorni, queste cose qua. Ero convinto. Va bene, noi ringraziamo lui Angela. Ha comprato un cavallo morto e lei ha chiesto il divorzio. Così è finita. Non lo so. Ma non l'ha comprato lui, l'ha comprato quella di mamma mia, quindi vedi tu. No, sì, infatti, però voleva comprarlo anche lui probabilmente. L'ha comprato il Cobra. Va bene, grazie di questo giochino. E noi ora registriamo la puntata, che voi non avete ancora ascoltato. Avete ascoltato? Non lo so. E niente, grazie. Ciao. Ciao. Now recording. Benvenuti. Episodio 122. E con me, vabbè, avete ascoltato un intro con un gioco e con gli ospiti della settimana scorsa, che ringraziamo di nuovo. E sono rimasti con me Jacopo e Andrea. Ciao. Vabbè. Per registrare un nuovo episodio di rubrica Cage. la rubrica che tutti stanno, che tutti amano e adorano. Ciao Gianfe. E, parliamo dell'ultimo film di Nicolas Cage, il 99esimo. In realtà poi non è l'ultimo film di Nicolas Cage, perché in realtà ne ha girati 56 e è l'ultimo uscito, e, che si chiama Pig. E, ma non so da dove cominciare. Ah, appunto, il film è uscito adesso e potete procurarvelo in modi, non lo so onestamente come si può trovare, se non tipo noleggiando da qualche parte o ci siamo capiti. E, il film è uscito credo nelle sale negli Stati Uniti e non so come sia andato, poi magari se avete dei dati li tiriamo fuori. È un film potrei dire indie, nel senso che è distribuito da Neon, che è una compagnia di è la compagnia di film che ha fatto, per capirci, Parasite, ha prodotto. E, ah, okay. Però ecco, non direi che è uno dei grossi colossal americani. E, oddio, non so, potrei sbagliarmi, ma non mi sembra così grossa come casa di produzione. Tra l'altro Nicolas Cage ha commentato la cosa e poi magari, vabbè, ci arriveremo. E il film ha un cast molto piccolo, perché di fatto c'è Nicolas Cage, c'è Alex Wolff e pochi altri attori, tipo, boh, chi c'è, Adam Arkin, ma non sono, cioè, sono veramente questi gli attori. E ci sono alcune comparsone e basta. E anche dal punto di vista di set è un film comunque che sta molto, cioè non ha speso molto in set eccetera, ma ha speso un sacco in, a mio parere, in inquadrature, perché la fotografia mi è piaciuta a sorpresa. E poi magari parliamo anche di questo. Il film, il regista del film è Michael Sarnowski, che è al suo esordio, perché non ha niente di accreditato da nessuna parte, e parla di un certo Rob, che è un... non so se in realtà... sì, lo diranno nel trailer. No, non dirlo. Okay. Aspetta, prima che ne parliamo... Sì. Andatelo a vedere se vi incuriosiva già. Nel senso, guardate il trailer e se vi incuriosisce guardatelo. Se non vi dice un cazzo continuate, nel senso, sti cazzi, spoiler o non spoiler, cioè nel senso... giusto per chi... magari perché io già un po' mi ero interessato, quindi... cioè, vabbè, niente. Sì, vai, allora, il trailer è un po' ambiguo, nel senso che sembra... un'altra cosa che non è. Sì, cioè sembra una cosa in realtà, perché non sembra neanche un film, sembra più una cazzata onestamente. E, il film poi è un'altra roba. Allora, il film appunto parla di questo Rob che vive col suo maiale da tartufo e ha una vita frugale in una sorta di cascina nel mezzo dell'Oregon, delle foreste dell'Oregon. E un bel giorno il suo maiale viene rapito. E in realtà il trailer credo faccia vedere solo questo. E lui che torna, che va, insomma, delle scene a caso di lui in città. Mi pare, adesso non mi ricordo. E... boh, vabbè, insomma, se volete vederlo andate, chiudete ora e andate a vederlo. Se non... gli spoiler non sono particolarmente rivelatori, nel senso che non è che sia poi questo twistone incredibile, però ecco, magari c'è una micro sorpresa delle cose. Io avevo anche preso appunti da qualche parte. Diciamo che da adesso in poi siamo spoiler. Però spoiler, sì, fanculo, sì. Nel senso. Allora, il film appunto si continua con... allora, diciamo che appunto questo Rob si trova in una cascina, in una casa di campagna in mezzo alla foresta, e con questo maiale che gli trova i tartufi, e lui poi cucina i tartufi, ma soprattutto vende i tartufi. Vende tra l'altro per ingredienti, da quello che si vede, cioè non l'ho visto uscire dei soldi. E vende a questo Amir, che è interpretato da Alex Wolff. E intanto, vabbè, ovviamente il protagonista è Nicolas Cage. Vabbè, penso che questo fosse scontato. E che è invece un tipico tizio di città, ricco, ma ricco nel senso che fa vedere anche che c'ha i soldi, che gira con una Camaro e vestito tutto fighettino, e porta questi tartufi in città, verosimilmente li vende a dei cuochi. Cioè dei cuochi, dei ristoranti. Un bel giorno questo, praticamente subito in realtà, il maiale viene, viene rapito, e di fatto Rob si unisce ad Amir per andare a cercare il maiale in città, ovvero chi gliel'ha rapito in città. Già dall'inizio si vede che Rob è completamente isolato dalla società e non ha neanche l'acqua corrente, tipo durante tutto il film Nicolas Cage non si cambia d'abito e non si lava e gira con questa sottana e questo pigiamone di altri tempi addosso. E che dire, si scopre che questo Rob è uno chef molto famoso in città, che si è isolato dalla città, e poi si scopre che c'è una sorta di mafia, tra virgolette, che è dietro, mafia dei ristoranti, che è dietro, o mafia vera e propria, che è dietro a questo rapimento del maiale. Poi vabbè, non andrei a approfondire oltre. Che altro devo dire da trama? Niente, mi sa. Il film è diviso in tre parti, come se fosse un film di Tarantino, più o meno utili in realtà, perché non cambiano granché. È carina la divisione in parti, ci sta bene in realtà con la trama, ma è completamente inutile ovviamente, e anche perché non mette in risalto la rivelazione o cose di trama. È più dividere proprio, è come se lui avesse scritto la sceneggiatura divisa in tre parti perché gli era comodo da scrivere così, e poi ha riportato i titoli delle tre parti, almeno questo è il mio parere, poi magari mi sbaglio. E il numero di battute di Nicolas Cage è il solito, per cui parla pochissimo e grugnisce per lo più o fa gesti o fa cose. Non lo so, allora, ci sono delle cose molto belle, ci sono delle cose molto brutte. In generale il film è un grosso me, perché non so, le parti belle e brutte che siano non mi dico niente lo stesso. È molto bello vederlo in camicia da letto, perché è veramente figo, sembra un po' Pippo e Topolino, quelli anni 80 e castoni. E poi ci sono delle parti che ricordano un sacco John Wick. È come se praticamente John Wick fosse stato moddato con degli chef al posto degli assassini e gli avessero tagliato tutte le scene d'azione, di fatto. E basta. Ditemi voi. Cioè, io ho altre cose da dire, ma magari... io so che a voi è piaciuto e no, quindi... scusate, il film è andato abbastanza bene da un punto di vista di critica, e nel senso che comunque le valutazioni per ora sono molto positive, è appena uscito, però insomma sono abbastanza positive, e si vede che è un film che ha un'idea, cioè questo non ho niente da dire, però vabbè, prego. Ma io direi va prima Andrea, così. No, va bene. Non lo so. Per me è un po' come... cioè, la vedo un po' come Salla, nel senso che... alla fine... alla fine fai i conti... davvero ho fatto me. Cioè, nel senso... non ho capito un sacco di cose, più che altro. Cioè... faccio un esempio... Il dialogo tra lui e Amir la mattina dopo del pestaggio, quando lui gli prepara i toast, Amir, vi ricordate? Sì. Io, il dialogo tra loro due, cioè io non ho capito, cioè, e così molte altre scene. Perché secondo me c'è la cosa che lui... in realtà lui sa già chi è Amir, sa già chi è suo padre, sa già chi è sua madre, sa chi sono tutti. Quindi quella storia lì alla fine non serve a un cazzo, serve solo questo è come l'ho capita io, serve solo allo spettatore per capire il finale di fatto. No, penso che Andrea si riferisca alla profezia che fa lui. Quando comincia a vaneggiare sul l'allagamento, sul riscaldamento globale. Ah, boh, penso, no. Questo è una roba mia, forse. Cioè, io non ho capito un cazzo dei dialoghi di quello di che stavano parlando. Cioè, non, lui parla sempre, cioè, non ti capisce niente. Okay. Ma è un problema probabilmente mio. Cioè, lui ogni tanto, cioè, anch'io ho alcune cose. Tra l'altro non ho capito perché gli chef si dovrebbero prendere a schiaffi. È una parte della trama che a me è sfuggita. Cioè, cos'è quella gang sotterranea di chef che si prendono a schiaffi? Ora, mi ricorda molto John Wick, nel senso che c'è tutta sta cosa di non detto, detto, non detto. Esatto. Però al contrario di John Wick, che è un universo più o meno semplice da capire, nel senso che, ok, loro sono assassini e basta. Qua è... surreale. Appunto, lo trattano, cioè, quando fanno il loro nome, appena lui inizia a usare il nome, tutti lo trattano come se fosse davvero John Wick, cioè fosse un assassino, esatto, sì. Cioè, nel senso, non ha senso. Però, vabbè, non lo so. Ma alcune scene, mi sono piaciute, ho trovato toccanti, perché alla fine è cioè, un film drammatico e alcune scene so forti, effettivamente, però la somma... Non mi è... più altro, come cioè, ho detto, secondo me avrebbe lui ha scelto di affrontare questo film in un modo abbastanza originale e avrebbe potuto scrivere con gli stessi ingredienti un altro film che per me avrebbe avuto più senso, cioè in cui davvero spiega le cose e hai detto una cosa importante ora, Sonna. Lo so, ma non è così che, cioè, nel senso, lui ha preso gli ingredienti e ci ha fatto una merda. Quindi ha parafrasato il suo stesso film in modo sbagliato. Non credo. Io non credo. Vai, dici allora. No, dici. Hai finito? Se allora, mi prendi altro vi dico. Allora, non avete capito un cazzo, ho ragione io, arrivederci. Ciao. Ok. No, vabbè, per me, allora, premetto, per me questo film... è personale, nel senso, ecco, come diceva Andrea, questo film è Ratatouille, ma il critico sono io, nel senso, cioè, non mi aspettavo che mi facesse questo effetto e posso capire a chi non gliel'ha fatto, ma per me questo film ha toccato un tasto, diciamo, debole, cioè ha toccato un qualcosa, non so, non di sessualmente, diciamo. Cioè, voi dite, ok, un'altra persona poteva prendere questa sceneggiatura e farci qualcosa di più sensato, è vero, ma la scena dove lui, per esempio, va nel coso sotterraneo e scrive il nome e nessuno dice nulla, la scena dove, poi la scena dopo dove si picchiano, cioè, è vero che lì per lì non capisci un cazzo, però emotivamente capisci, perché vedi lo sguardo delle persone, degli attori che stanno lì, e dopo spiegano ovviamente nella trama. No, io capisci. Non ho capito ancora che cazzo è successo lì sotto. Cioè, lui ha scritto Robinfeld, che è il suo nome, che in questo, diciamo, contesto di questo film è un nome importante, ma sì, perché... Vabbè, perché lui è lo chef di sti cazzi. Però, nel senso, nella vita reale, non è che se tu scrivi sulla lavagna, scrivi che cazzo ne so, Gordon Ramsay, tutti sanno chi è Gordon Ramsay. Cioè, è un contesto particolare in cui si svolge questo film, dove tutti più o meno sono collegati a quell'universo lì. È una roba di John Wick, sì. E quella, esatto, la roba di John Wick, però, viene un po'... ribaltata, perché nella scena dopo non c'è lui che caccia i coltelli da chef e comincia a fare ricette, no, cioè lui per tutto il tempo rimane al di fuori, cioè rimane come negli stereotipi della sceneggiatura, tu sei un ex qualcosa, no? Sei sempre un ex assassino, un ex mago, un ex satana, no? È sempre, cioè, lui rimane ex dalla società, rimane ex, diciamo, partecipe della società, e in quella scena ce le prende, nel senso, lo so, cioè magari non ha senso da un punto di vista di, ma perché, diciamo, degli di chef logico. Dovrebbero incontrarsi nei sotterranei e prendersi a schiaffi, tra l'altro non è neanche lui, e poi il contesto c'è, che è tipo una cosa, cioè di come si dice, di barboni, cioè ci sta, nel senso, come contestualizzato lì, a me personalmente è una cosa che non mi ha fatto, come posso dire, non mi ha distolto, no? Cioè non mi ha tirato fuori dal come si dice, dal susseguirsi degli avvenimenti, no? Come in un film di Lynch, magari è una cosa che se ci pensi si rompe, però a me non si è rotta quando lo stavo guardando. Ma la cosa che mi ha colpito davvero è con quanta serietà hanno scelto di affrontare la cosa. Cioè, la scena di lui che sta al ristorante e distrugge il suo ex, diciamo, assistente, a me è devastato. Cioè, nel senso, è una scena che puoi benissimo vedere come ridicola, come, cioè, super mega, come posso dire, cioè, poteva recitare molto più da Nicolas Cage in quella scena. Invece per tutto il film lui quasi non recita, cioè lui sta fuori, cioè, che è perfetto per Nicolas Cage, in realtà. Che è perfetto, ma perfetto per il personaggio, secondo me, cioè. Vabbè, ma è tipo John Wick, cioè che lui non dice un cazzo tutto il film. Cioè, non so, che lui ha la stessa faccia da culo e basta. Cioè, per me questo film non c'entra nulla con John Wick, ed è fatto apposta per fartici credere all'inizio con questo mistero di chi è, di chi non è, con la premessa simile. Beh, ha molte cose di John Wick, nel senso che ha una sorta di mitologia. Che in questo caso è dei cuochi e nella, ma cioè serve ma serve solamente a contestualizzare le ultime, perché non è, cioè, la cosa bella del finale che mi ha fatto commuovere in più scene, cioè per più motivi, insomma, lui con con quella che presuppongo fosse la figlia, con il mafioso, e anche l'ultima scena, cioè non è la solita storia della moglie nel frigorifero come John Wick, che c'è la moglie nel frigorifero, cioè la moglie che è morta, e la storia è lui che deve vendicarsi o deve in qualche modo processare la cosa come in John Wick, no? Perché anche il sottotesto sembra quello di John Wick. Beh, però sì, in realtà ci assomiglia parecchio, perché la moglie è il suo maiale e il maiale è morto. Però alla fine non lo è, cioè alla fine non è lui che deve processare la morte della moglie, o che deve in qualche modo fare, cioè. Beh, però lo fa perché in effetti diventa, tra virgolette, figura paterna per Amir, quindi è quello il suo modo di, esatto, processare. Vabbè, però modo, uguale John Wick. Non c'entra nulla la moglie, cioè alla fine quello che è stato un fattore, diciamo, scatenante, e viene fuori solamente, cioè, come posso dire, è la cosa più importante, è la relazione con la società. Non c'entra nulla il fatto che si sia allontanato dalla sua passione, da quello che faceva prima. Non è vero, come posso dire, non è come in John Wick, devo lasciare il mondo degli assassini per mia moglie, e no, okay, mi hanno ucciso il cane, non so. Allora, cioè, e non è neanche... Beh, non lo spiega. Alla fine del film lui non torna nella società, alla fine del film lui non torna, non è tornato a fare lo chef, e non ha neanche superato la morte della moglie, semplicemente si è avvicinato di più a una persona che aveva senso ci fosse, cioè, come posso dire, ci legasse di più, no? Alla fine diventasse un po' la figura paterna, perché lui ne aveva bisogno e dall'altra parte pure ne aveva bisogno l'altro, quindi... Però io l'ho trovato bellissimo, e la cosa che più mi ha commosso è stata quella scena che anche lì sembra ridicola e sembra maligna, ma in realtà secondo me è stupenda, di lui che cucina lo stesso identico, la stessa identica cena che aveva mangiato il tizio con la moglie quando erano felici, insomma. È una cosa, cioè... Sì, però lo so, cioè, avrebbe potuto far scrivere in un altro modo la stessa roba. Cioè, a me è piaciuta molto l'idea il della fatto cena. Perché tu puoi dire questa cosa, Salla, senza essere obbligato a specificare come altro scriverla. In modo lineare. No, io non la dico perché per me così ha più senso. Non esiste, cioè, se una cosa mi ha provocato emozione, scritta in questo modo, organizzata in questo modo, è cronologicamente ordinata, non c'è un flashback, un flash forward, non ci sono spiegoni che ti dicono, ah, perché lui, beh, questo, vabbè, qui... Allora, lo spiegone c'è, lo fa lui, ma vabbè, ci sta in realtà. Che dice, io ricordo ogni persona con cui ho parlato e ogni piatto che ho fatto. E vabbè, ci sta. Cioè, fa parte... No, ma io dico, cioè, non c'è un momento... Cioè, in John Wick ci sono 500 scene in cui dicono, ah, John Wick, Baba Yaga. E ci sono 20 miliardi di spiegoni, cioè... Sì, sì, vabbè. Per carità, per quando sia bello il primo, la lore, così... A me questo film piace perché non ti... Cioè, sembra che ti sta prendendo per il culo, ma in realtà sta facendo l'opposto. Cioè, non lo so, a me ha fatto questa impressione. Non so... Cioè, nel senso, no, non so. So che... Cioè, capisco la vostra reazione, ma non la condivido. Cioè, per me è un... Ah, cioè, non è un film brutto, è solo... me. Cioè, è strano. secondo me, se... E, cioè, io l'avrei apprezzato di più se avesse tenuto anche tutta la roba che lui ha creato, ma senza c'è anche il fatto che lui non cucini mai tranne alla fine, ci sta, cioè che non cucini ovviamente da chef, perché poi all'inizio lui fa le sue cazzate da solo, e ci sta, ha senso il fatto che lui non spieghi mai chi è lui, che cosa faceva, ci sta, è molto bello anche i momenti di incontro eccetera. Semplicemente una trama un pelino più lineare avrebbe aiutato a rendere il film più piacevole. E il fatto lineare che... in che senso, scusami? Quando è che questa trama non è lineare? Lineare nel senso, cioè, senza scene nonsense, tipo persone che si prendono a schiaffi. Allora, quella scena dove lui fa vedere che si prende a schiaffi, serve a dimostrare una cosa, non a livello di trama che dici facciamo vedere che lui è bravo a prendere gli schiaffi così, no, fa vedere che lui è disposto a arrivare alla morte per ottenere l'informazione di dov'è quel maiale e andarsene. La scena di lui che fa la profezia sulla città di Portland che sarà sott'acqua. Ok, ma non lo puoi mettere in uno scenario realistico invece che metterlo in una cosa casuale di gente che si prende a schiaffi. Cioè, lui è uno chef, perché lui dovrebbe andare in quel posto a prendere schiaffi mettendo poi dei soldi? Cioè, non ha alcuna connessione con la realtà, oppure... Ma non deve avere realtà, deve essere coerente in quello che è stato impostato... Il film, se il film è stato impostato con sottobosco, tartufi, chef, smercio dei tartufi, smercio degli ingredienti per gli chef, sottobosco, cioè, per me, non lo so, ripeto. Io non ho capito, se mi spiegate voi, la connessione tra il maiale e la moglie, cioè non l'ho capita. Cioè, c'è qualcosa che lega le due cose? No, è questo il fatto, non è no, che la non moglie c'è niente che lega, maiale. Però è, diciamo, è il suo... Io, come l'ho visto io, è la sua, tra virgolette, ancora emotiva dopo che lui si è isolato. Cioè, lui si è isolato da tutti, però ha comunque un riferimento emotivo che è sto maiale. Sì, che gli dà sostentamento, ma in realtà poi alla fine non è vero. E poi non è vero, è semplicemente, vabbè, appunto, gli dà sostentamento emotivo, cioè è il surrogato di una compagnia. No, vabbè, è una compagnia, dai, povero maiale. Vabbè, è comunque un cazzo di maiale. Tra l'altro, chi è che mi ha detto? Forse Andrea, che hai proprio vissuto con il no, maiale. No, io te l'ho detto, ha passato 30 giorni con un maiale, Nicolas Cage, per fare sta cacata. Bello che sarà il maiale che si è insaporito. Ah, invece, a me a sorpresa mi sono piaciute tantissimo, che poi non sono neanche particolarmente belle, però mi sono piaciute tanto le scene in cui lui cucina. Bellissime. Cioè, da un punto di vista di luci e di come è impostata la scena, non è neanche così bella. Cioè, ci sono scene di gente che cucina molto più belle. Però ci sta perché sono molto rustiche, c'è un misto tra pubblicità mulino bianco e un misto tra, non so come, cioè cucina sporca, cucina... Tra l'altro ci sono solo due piatti cucinati su sto film e nei titoli di coda alla fine c'è scritto il nome del piatto e dello chef che l'ha creato, per adesso non li posso citare perché non me li ricordo. Uno era le Pigeon, ti sicuro. Vabbè, sì, il Pigeon. Che è quello che fa la fine. Quello che all'inizio fa è tipo, in realtà è solo una... È bellissimo il piatto, quello che gli fanno affumicato con tutto il fumo intorno. E lui poi lo smerda, ci smerda. Esatto, è spettacolare. No, ci sono delle scene belle. Avrei preferito... Cioè, in generale il film non è brutto. Avrei preferito appunto che... non lo so, magari mi sono sentito preso per il culo. Magari ci sono delle scene che appunto non avendo senso non mi piacciono. Avrei preferito un universo narrativo più reale. Cioè non parla di fantascienza, però in realtà parla di un mondo che non esiste alla fine. Ma ripeto, per me la menzogna di questo film a me ha filato, nel senso, accettando la menzogna, accettando che questo universo ha regole diverse, per me ha filato, nel senso, la roba profetica di lui che dice quelle cose è per metà, vabbè, è per metà Nicolas Cage, è per metà la lesione cerebrale a Nicolas Cage, per metà è lui che si autogiustifica, diciamo, il vivere molto isolato. Ma per me, cioè, ripeto, il fulcro emotivo di tutto il film è alla fine. Cioè, le ultime scene dove lui manda a raccogliere gli ingredienti e va lui a prendere il pane e quando poi cucina quel piatto così, mi hanno devastato davvero. Cioè, proprio non... boh, cioè, nel senso, non connettevo proprio. Perché un po' forse, cioè, dipende anche che stato d'animo hai quando lo guardi e la sensibilità che hai a questo tipo di argomento, insomma, cibo. Cioè, dipende dalla tua famiglia che relazione ha col cibo anche, secondo me, e un po' la storia che hai tu con il cibo e con i ristoranti e con gli argomenti poi, diciamo, più di perdita, di isolamento che ci sono in questo film. Però boh, a me hanno distrutto. Cioè, proprio. Cioè, tra questo e The Father è peggio questo. È diverso. Sono due. Per me più o meno sullo stesso piano come devasto. Come devasto emotivo, come finale. Ah, non abbiate paura. Il film in realtà, a meno che tu non sia legato a qualcosa in particolare, non è. Sì, non è The Father. No, no, esatto, cioè è solo per persone molto malate come me che può fare quell'effetto. E ti è piaciuto il fatto che la scena fosse muta, la scena finale? Sì. Perché invece quella cosa è cagarissima, esatto. Cioè anche nel momento in cui Nicolas Cage dovrebbe fare l'interpretazione, gli tagli pure la musica. Esatto, cazzo. Ci sta in realtà, perché cioè, se un attore è bravo non gli dai nessun supporto e comunque porta a casa la scena, però boh, non lo so, ci poteva stare un po'. Ma che c'è da dire, scusa, di quale scena parli però? Aspetta. Quelle in cui piangono. Vabbè, che c'è da dire lì, scusa? No, però è muta, di solito, cioè a meno che un attore non sia particolarmente bravo, tipo tanto, un po' di musica per dare un po' più di enfasi, io la metterei. O anche solo la voce degli attori vera e propria. Tagliare tutto l'audio è una roba molto rischiosa, soprattutto se gli attori non sono bravi, e non sto parlando di Nicolas Cage, ma sto parlando dell'altro tizio. Io non l'ho notata, non so se l'audio non c'era proprio o se per me ci stava, ma... Però, cioè, per me ci stava. Sei tu piangevi e ti facevi l'audio. Esatto. No, è che, allora, è una scena, per mettere un po' di contesto, è una scena in cui piangono, diciamo, tutti e due, sia il protagonista sia l'antagonista, poi tra virgolette, però sì. E, Nicolas Cage è bravo a fare queste cose in cui effettivamente lui è pazzo e quindi ci sta. E si vede la disperazione in Nicolas Cage. L'altro meno, perché probabilmente anche sano di mente, ed è una scena completamente muta, cioè nel senso che non c'è proprio neanche la musica viene tagliata. È una roba un po' rischiosa da un punto di vista di regia, però, per cui per esempio a me ha fatto un po' cagare, però vabbè. Vabbè, in ogni caso, non so, cioè adesso per farvi, diciamo, contro voi, pare che per me è un capolavoro, secondo me non è un capolavoro, cioè dico solamente che è un film che può fare effetti diversi a persone diverse, tipo che ne so, a me Alex Wolff in alcune scene, vabbè, quello che faceva Amir non mi è piaciuto tantissimo, è bravo lui, però cioè le scene con lui dove sta da solo non sempre funzionano. Per esempio, cioè ci sono, è un film che anche se magari vi piace, appunto, vi fa effetto come a me, poi comunque gli effetti ce l'ha, però boh, per me non è, per me è un film più che me, diciamo. Non è un film. Il finale che vuol dire, scusa? Eh? Il finale che vuol dire? Nulla. Qual è la spiegazione del finale? No, che finale, aspetta. Vuol dire, cioè, finale? Il finale lo finale, cioè lui che mette la cassetta, si ascolta la canzoncina e guarda. Non vuol dire niente. È lui che ascolta la cassetta della moglie. Non è... Tra l'altro, scusami, io stavo pensando, perché una cassetta? Quando cazzo è morta sta moglie? Negli anni 80? No, io le cassette le avevo fino agli anni 2000. Vabbè, niente. Non so, Rick. Va bene. Deve essere il suo compleanno? Non so. Forse è il suo compleanno. Vabbè, comunque questo era il 99esimo film di Nicolas Cage. E dicevo che lui in realtà è molto felice di fare questi film, perché e pagare il fisco, no, a parte quello, perché ha rivelato di non trovarsi bene nelle grosse produzioni, perché lo costringono a recitare come vogliono loro, perché lo pagano, sai che cosa, vabbè, comunque. E qui invece in questi film può dare più spazio alla sua arte, cioè alla sua interpretazione. Ci può stare, in realtà questo film è palesemente, cioè paradossalmente questo film lo porta a casa lui, nel senso che non ci sono tanti altri attori e lui è oggettivamente il più bravo lì in mezzo, nonostante sia Nicolas Cage, o meglio, visto che è Nicolas Cage, no, non lo so, no, però sì, è il più bravo, cioè quello che comunque porta a casa il film, cioè non ci fosse stato lui ma solo gli altri due e un attore mediocre qualsiasi, magari non avrebbe neanche avuto il messaggio che ha avuto, cioè la forza che ha avuto con Jacopo, cioè semplicemente è merito di Nicolas Cage. E lo porta a casa lui il film, sicuramente. E quindi, boh, cioè in realtà ci sta. Poi però se va a fare gli altri film indie che sono Jiu-Jitsu, ecco, può evitare. Cioè se facesse più tipo di questi film sarebbe più piacevole per tutti. Niente, basta. E se avete altro da aggiungere, lo prendo come un no. Allora, se non avete altro da aggiungere, noi ci vediamo settimana prossima. E adesso noi registreremo qualcosa che verrà proposto dopo la sigla. E niente, grazie di aver registrato questa puntata. E a settimana prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Siamo? Ah, quindi non vuoi neanche fermare Jack, ok. Vabbè, tanto poi lo spezzo. Ok, non dai, so. Io sono pronto. Andrea, apri il trailer di... Hai visto il trailer di Matrix 4? Vai, apri il trailer. Dove lo apro? Quello... Su YouTube. Ecco. Il mio dura 3 minuti e 12. Il mio 3 minuti e 4, ma tanto sarà uguale. Sì, tanto partirà la pubblicità subito. Sì, vai, vediamo. Vai, ci sei, Andrea? Provato. 3, 2, 1, vai. Ah, in italiano il mio. Cosa? Neil Patrick Harris. Sì. Oh mio Dio. Ma lui è il nuovo agente Smith? No, lui sì. Ma scusa, non aveva staccato Matrix? Sì, è vero, dovrebbero cambiarli. Era morto in teoria. Anche lei? Anche lei era morta in teoria. Vabbè, ormai lui fa solo ste scene qua, comunque. Esatto. Drogatissimo. Porca trave. Ah, ho capito adesso, pillola blu. Ah. Minchia. Oh mio Dio, è un recasting questo. Oh mio Dio. Chi è questa qui? Un altro recast di... Ah, della tizia, di tre. Ehi. Già. Palesemente gli effetti speciali sono migliorati perché... No, 200 volte meglio alcune cose. No, però alcuni effetti no. Ma scusate, c'è... Elrond. E niente. Sta assordando. Ma chi è questo? Ci sono cose che non esistono. Cose? Sì, non ho capito alcune cose. L'hanno mangiato. Ma intanto... sì. Non abbiamo reagito molto, quindi reagiamo adesso. Ma, aspetta, ma non c'è Elrond? Non c'è Elrond, pare. Non lo so. Cioè, hanno preso Neil Patrick Harris. Ma anche lui è morto. Cioè, sono tutti morti, in teoria. Tutti morti in teoria. No, vabbè, non tutti, tutti. Cioè, gli umani non sono morti. Ma, sì. Ma quindi la gag è che loro sono morti e quindi li ha rimessi in Matrix. Allora... è strano perché sembra allo stesso tempo un film nostalgico, capito? Ah, guarda, ti ricordi questa cosa, ti ricordo. Però ci sono solo loro due, cioè nel senso, sì. non capisco. E tra l'altro ci sono le stesse robe sbragate che c'erano prima, ma niente di... Il fatto è che alcune cose sembrano identiche, ma altre... cioè, mi sembra un film diverso, proprio come look, nel senso... Boh, non so voi, però, cioè... non mi ricorda come fotografia, come stile i primi Matrix. E vabbè, non so se era bene o male. Era molto anni 2000, quindi... Ma ho letto male o c'è solo una Wachowski? Sì. L'altra okay. Sta facendo altro, non ricordo cosa, sinceramente. Ok. Poi cioè, ha spiegato lei, questa qua, che sta a fare questo, che era un progetto più personale suo, questo qui... visto 4, insomma, non so bene per quale motivo. So, deve comprarsi casa, insomma, sai quelle esatto, cose. Esatto, un progetto... Mandy, non iniziate questo, Mandy, per favore. Quando esce, poi fa schifo, ne parliamo male, ma... Secondo me deve pagare i creditori di cosa, di Cloud Atlas, però vabbè. Può essere. Che gli vuoi dire a Cloud Atlas? O di Matrix basta, 3. Basta. Io non ho detto, io a me è piaciuto Cloud Atlas, sto dicendo che però... Come a me Matrix office, 3 no, però. 3, però i soldi li ha fatti. Sì, sì, anche il 2 con la Bellucci, ricordiamo. La Bellucci. No, però, esatto, Cloud Atlas ha perso soldi, Andrea, questo è risaputo, quindi... da qualche scusate, parte... ma fuori di casa mia stanno cantando... non avete capito. Canzoni. In Your Head. Esatto, no, non è vero. E, no, è carino, ci ho messo 20 minuti a capire la cosa di pillola blu e pillola rossa in realtà. Però figo. E io però avrei fatto un recasting di... Adesso so che sono impopolare, eccetera, eccetera, ma Keanu Reeves. Io avrei fatto, sì, pure di Carrion Moss, sinceramente. Perché, ok, lui è Neo e tutte le cazzate, però, bah, cioè, rotto il cazzo, è John Wick. No, cioè, nel senso ci stava per il tipo di film che vogliono fare, o almeno così credo, da quel poco che si capisce, ci stava a fare un recasting anche di loro due. Sì. Cioè, proprio resettare tutto. Che poi, vabbè, dal punto di vista di marketing tutti vogliono bene a Keanu Reeves, bla bla bla, eccetera, eccetera, però rotto il cazzo. No, cioè, sinceramente... È l'unica persona che non è stata sputtanata da Cyberpunk, vi rendete conto? È vero, è l'unico che ne è uscito in colume. Ma tutti ti vogliono bene. Cioè, il fatto è questo. Io ti voglio bene pure, ma... Che lo mettessero a fare John Wick 4, nel senso, si deve allenare, poverino, c'ha la sua età, non è che... Cioè, ci vuole più tempo per allenarsi per John Wick, quindi cioè, lasciatelo fare quello e questo lo fate fare un giovincello che gli assomiglia. Sì, fate tipo Star Wars, un finto recasting, poi al massimo lo mettete in Matrix 5. Tanto c'è pure la spiegazione di lore negli altri Matrix, dove spiegano il fatto dei prescelti e tutto, quindi a posto. Vabbè, e niente, ciao. Ciao ciao!